Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanide, Flavio Suardi in redazione, Filippo Reggi in regia. Sul quotidiano AS di oggi, quotidiano spagnolo, come ben sapete molto vicino al Real Madrid, c'è la prima intervista di José Mourinho da allenatore del Real Madrid e c'è già un sufficiente identikit di quello che sarà il suo Real Madrid, magari con Maicon, che Mourinho chiede senza mezzi termini, probabilmente non con Milito, perché dice Milito è l'Inter, con lui siamo stati tutti ciechi. Chiaro che mi farebbe piacere se venisse con me, però per me deve restare, rinnovare e guadagnare più soldi. Parla anche da agente adesso Mourinho. Poi chiacchieriamo su questa intervista, diamo anche un'occhiata nel dettaglio. Mourinho ritiene impossibile l'arrivo di De Rossi al Real, perché dice De Rossi alla Roma è il dopo Totti. Alberto Cerruti è una penna di spicco, come ben sapete, della Gazzetta dello Sport e del Calcio Italiano, ed è anche un collega che conosce molto bene il possibile prossimo allenatore dell'Inter. Lo ha scritto ieri proprio sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello. Alberto Cerruti, buongiorno. Ciao, grazie. Buongiorno, Alberto. A tutti voi. È chiaro che Capello sarebbe, come tu scrivi, ma come facilmente intuibile e immaginabile, l'uomo giusto, e lo dice perfino la storia, no? Che potrebbe ripetersi. Dopo un allenatore spremiagrumi, come Sacchi, come fu Sacchi e come è stato ora José Mourinho, arriva lui a raccogliere il succo. Non c'è dubbio sul fatto che possa essere davvero l'uomo giusto per l'Inter. Io credo che non ci siano dubbi e penso che nemmeno il fatto che lui sia con la nazionale inglese, per quanto possa sembrare paradossale, sia un problema. Capello è un grandissimo professionista, sarà concentrato al 100% sul Mondiale dell'Inghilterra e siccome l'Inter è una squadra già fatta, che ha bisogno di pochissimi ritocchi, lui potrebbe arrivare e trovare già la tavola apparecchiata e poi penserebbe lui a continuare un ciclo, perché questa è un'Inter che può aprire un ciclo. La sua grande sfida, il suo grande sogno è proprio quello di continuare a vincere con l'Inter, anche per dimostrare indirettamente che Mourinho ha raccolto quello che Moratti gli ha preparato. Io vedo un problema però, Alberto, mi sembra molto difficile temporeggiare fino al giorno in cui l'Inghilterra uscirà dai mondiali, magari l'11 luglio, il giorno della finale, non è impossibile, anzi secondo me è pure probabile. Mi sembra difficile temporeggiare e io non ho dubbi sul fatto che Capello non possa essere distratto nemmeno da un eventuale contratto già firmato con l'Inter. Il mio dubbio è quello relativo ai media inglesi, potrebbero farlo a pezzi nel momento in cui uscisse ufficialmente questa notizia. E d'altro canto l'Inter non può nemmeno temporeggiare per un mese, come si fa? Ma questo è un dubbio legittimo, però intanto Capello è fatto di amianto, per cui quello che scrivono i media inglesi gli scivola addosso e non gli creerebbe alcun problema. Io penso che non ci sarebbe nemmeno bisogno di ufficializzare prima, perché è un po' quello che sta succedendo con Prandelli, non è ufficiale, ma tutti sanno che Prandelli sarà il nuovo allenatore della nazionale italiana dopo il mondiale, dopo Lippi. Stanno succedendo cose strane, stanno cambiando i tempi. Io non avrei mai immaginato che l'Italia andasse al mondiale sapendo già il nome del successivo allenatore. E quindi potrebbe succedere la stessa cosa con Capello. Lo possono ufficializzare dopo, sarà il segreto di Pulcinella, il segreto di Capello, e quindi gli inglesi saranno concentrati su quello che succederà al mondiale. Tanto anche se lui non fosse d'accordo con l'Inter e se l'Inghilterra andasse male lo farebbero a pezzi comunque. Sì. Quindi francamente anch'io pensavo a queste perplessità prima, mi sto rendendo conto che in realtà sono perplessità che si possono superare. Si possono superare. Intanto Florentino Perez ha già annunciato, come si diceva ora, l'ingaggio di un allenatore che è ancora formalmente l'allenatore dell'Inter. Mourinho parla da allenatore del Real Madrid quando è ancora formalmente allenatore dell'Inter. Moratti fa benissimo a tenere la sua posizione. Mourinho è qui, ha il cartellino del prezzo attaccato, se lo volete scucite. Ma fa benissimo Moratti, perché lui è stato tradito, dobbiamo dirlo chiaramente, da Mourinho, che non gli ha mai detto nulla delle trattative che ha portato avanti e ha concluso con il Real Madrid, anche se formalmente le trattative le ha condotte il suo manager, lui non ha mai parlato personalmente, però ha incaricato il suo manager, i manager esistono proprio per questo motivo, di concludere l'accordo con il Real Madrid molto prima della finale. E quindi Moratti fa bene a tenere duro, perché l'anno scorso quando Ancelotti decise di andare al Chelsea informò Berlusconi, Galliani, e quindi fu un addio molto elegante, molto signorile da parte di tutti. In questo caso Moratti perde l'allenatore adorato dai tifosi, per quale motivo dovrebbe perdere dei soldi perdendo anche la faccia? E quindi io tutta la vita sono dalla parte di Moratti, spero che tenga duro. Assolutamente, in questo momento non è Milito l'Inter, è Massimo Moratti l'Inter, ma si è capito anche nel per il modo con il quale elegantissimo e a testa alta il modo in cui ha festeggiato la Champions League in un ambiente non semplice, perché tra Milito che bussa quattrini, tra Mourinho che dice io vado ad allenare Real Madrid, non era facile tenere la rotta. Moratti è stato grandissimo in quel frangente. Alberto, ti chiedo un attimo di pazienza, traffico 30 secondi, poi un altro paio di considerazioni prima di salutarti. Da poco vi arriverà gli ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde, ma prima volevo chiudere il discorso con Alberto Cerruti. Alberto, io non vedo nulla, ma alla fine, di peccaminoso comunque nell'addio di Mourinho all'Inter, se non appunto, come ora si diceva, una certa ineleganza nei modi e nei tempi, e questo è fuori discussione. Però mi sembra che il succo del discorso stia nella frase che ha detto: il mio lavoro qui è finito. Questo io lo condivido. Ma io non lo condivido invece, perché il suo lavoro non sarebbe finito se non avesse vinto la Champions. Lui si è accordato con il Real Madrid prima della finale di Champions, quindi lui con grande opportunismo ha raccolto al volo una enorme occasione professionale, e poi gli è andata bene perché l'Inter ha vinto la Champions. Però non è vero, è falso, è un falso storico dire che lui se n'è andato perché ha vinto tutto. Lui se n'è andato perché dopo la semifinale con il Barcellona ha avuto l'occasione di firmare il pre-contratto con il Real Madrid. Allora alla fine gli è andata bene, ma io mi chiedo, e se invece non avesse vinto la Champions, che cosa diremmo? Quindi non bisogna sempre fermarsi soltanto ai risultati, bisogna andare un pochino oltre. E in questo caso, ecco, la verità vera è che Mourinho si è accordato prima della finale. Credi che come tipo di allenatore lui potrebbe rimanere più di 2-3 anni in un club, per il modo in cui fa l'allenatore Giuseppe Mourinho? Io direi più che per il modo con cui fa l'allenatore, per il modo con cui gestisce i propri affari. Quindi dipende da innanzitutto quello che lui farà a Madrid, perché a Real Madrid sono molto impazienti. Se andasse male potrebbero anche mandarlo via. Lui al Chelsea non ha deciso lui di andare via, è stato Abramovic che lo ha mandato via. Quindi prima di tutto dipende dai risultati, e poi, come abbiamo visto in questo caso, dipende dalle opportunità che lui avrà, perché se si farà avanti il Manchester United, che sarà la sua prossima tappa, lui farà a Florentino Perez esattamente quello che ha fatto a Moratti: prenderà e andrà al Manchester United. Alberto, per chiudere, c'è un altro allenatore che dice, allenatore in pectore, che dice: avesse nato io al Milan avremmo vinto con largo margine lo scudetto. Silvio Berlusconi lo dice, si legge invece di un'offerta del Milan, si legge da più parti un'offerta del Milan per Ibrahimovic, addirittura le cifre 35 milioni più un telaro Boriello, lo scrivono in Spagna su più media appunto. A parte il gusto dello sberleffo all'Inter, che non manca mai, non mi sembra un'operazione credibile dal punto di vista della politica attuale del club. Oppure è cambiata la politica del club, oppure sta per cambiare l'assetto proprietario, però qualcosa non quadra. Guarda, si potrebbe fare un sondaggio e chiedere se è più inverosimile il fatto che il Milan con Berlusconi avrebbe vinto lo scudetto oppure il fatto che arrivi Ibrahimovic al Milan. Dura. Appunto, vorrei fare un sondaggio e vedere cosa rispondono i vostri ascoltatori. Proviamoci, sì. Mi sembrano due follie, insomma, una al 99% e l'altra al 98%, ma è una bella lotta. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Un piacere. Grazie ad Alberto Cerruti. Adesso comincio a parlare con gli ascoltatori. Se vogliono rispondere al sondaggio, benissimo. È più una follia Berlusconi che da allenatore vince lo scudetto con 5-6 punti di vantaggio, oppure Ibrahimovic al Milan l'anno prossimo. Sono due belle grosse, troppo grosse. Franco, Roberto, Giuseppe. Il primo è Franco, provincia di Brescia. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Buongiorno. Dunque, io sono l'interista. Sì. Però sinceramente, che Mourinho vada via, che Mourinho rimanga, a me non mi interessa. Ma è possibile che all'Inter deve sempre succedere qualcosa quando un allenatore deve andare via? ma si sapeva già dall'anno scorso che se Mourinho vinceva andava via. Sì. Dove è una cosa che ha questi 16 milioni che devono andare, 16 milioni che devono tornare. Ah. Ma io come interista festeggio la vittoria di 3 titoli, fa benissimo. Poi il resto a me non mi interessa più. Ma vede Franco, lei festeggi 3 titoli, come dice Mourinho. Mourinho è stato troppo importante in questi 3 titoli. Non è un, semplicemente un allenatore che se ne va, è quello che ha costruito questa Inter. Quindi, ma poi non mi sembra nemmeno che stia succedendo tutto questo pandemonio. Moratti vuole quei soldi perché sono previsti dal contratto, fa benissimo a difendere la sua posizione, userà quei soldi per pagare il prossimo allenatore, magari Capello. Immagini un po', Capello pagato dal Real Madrid con la clausola rescissoria di Mourinho, mica male, no? No. Mica male, no, non mi risponde Franco, allora vado da Roberto. Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, sono un milanista che dice due cose. Il primo, Mourinho è stato quest'anno bravissimo e ha imparato da quello che gli era successo l'anno scorso, a dosare le forze e a non stravincere in campionato, sì, ma a vincere e basta, per concentrarsi anche sugli altri obiettivi. E questo bisogna riconoscerglielo senza neanche discutere. Beh, Roberto, bisogna riconoscere anche che l'Inter di quest'anno era più forte di quella dell'anno scorso, Perché Milito, perché Eto, perché Snyder soprattutto, che ha cambiato comunque, era l'uomo che ha cambiato la faccia di questa Inter, è proprio Wesley Snyder, al di là dei 30 gol di Milito. No, certo, però Mourinho è stato bravo a non stravincere in campionato e a vincere da tutte le, in tutto, dovunque è andato. L'anno scorso, se avesse gestito la squadra come l'anno scorso, avrebbe stravinto in campionato e forse non sarebbe arrivato fino in fondo in Coppa dei Campioni, probabilmente. Con una vincendo in maniera di forza, ma vincendo proprio di forza le ultime partite. Ma a parte questo, Alberto Ceruti diceva prima che tutto sommato l'Inter potrebbe tranquillamente aprire un ciclo. Fermi tutti, vero, però provate a guardare la carta d'identità della difesa dell'Inter, per cortesia. Di tutta l'Inter, Roberto, lo stesso Milito ha 31 anni, io non sono neanche così convinto che in fondo sia uno splendido affare quello di trattenere Milito coprendolo d'oro, perché questo accadrà. L'ho detto anche Mourinho, vi leggo le sue dichiarazioni di oggi su AS. Con lui siamo stati tutti ciechi, mi riferisco ai grandi club Madrid, Barcellona, Chelsea, Inter, tutti. Nessuno ha creduto in un giocatore brutale. Come attaccante centrale Milito ha tutto, però penso che l'Inter non possa permettere a Milito di andare via. A un giocatore come lui che è entrato nella storia del club, Milito è l'Inter, chiaro che mi farebbe piacere se venisse con me, però per me deve restare, rinnovare e guadagnare più soldi. Cosa ha detto Mourinho? Lei fa riferimento alla difesa dell'Inter, io faccio riferimento a tutta l'Inter, che è una squadra con la carta d'identità, con carte d'identità piuttosto pesanti, anagraficamente, no? Ebbene, la difesa... Lucio, Cambiasso, Zanetti, Materazzi, il ciclo si può aprire, nel senso che se uno intende per ciclo vincere per il prossimo anno e forse l'anno dopo ancora, può anche starci dentro. Secondo me ci faranno molta fatica, ripeto, però guardiamo la carta d'identità per loro come è stata guardata per il Milan negli ultimi anni. Ma ha ragione, infatti secondo me dovrebbe... L'idea migliore sarebbe prendere questa occasione per cambiare totalmente pagina, non dico per rifare la squadra, però per cominciare ad avviare un progetto di evoluzione di questo gruppo, che è appunto in là con gli anni dal punto di vista anagrafico. Poi che possa continuare il ciclo in Italia mi sembra credibile, anche perché non vedo una gran concorrenza sul fronte interno, no? Con la Juventus che sta provando a rinascere con Del Neri, oggi leggiamo le prime indicazioni di Del Neri sulla Juventus che verrà, però è un'incognita. Con il Milan che non mi sembra competitivo, non era competitivo quest'anno, dubito che lo sarà l'anno prossimo. Resta la Roma con Adriano, avete sentito anche prima leggere che probabilmente arriverà, con De Rossi che con ogni probabilità resterà, e abituiamoci all'idea di un altro duello, non so quanto lungo e non so con quale esito, tra Inter e Roma. Altri competitor io non ne vedo, onestamente. Giuseppe, Piacenza, buongiorno. Salve. Senta, io volevo fare un intervento, non sono un tifoso, voglio fare un intervento in merito alla partenza di Mourinho, sì, perché a mio parere è una cartina al tornasole di una certa cultura calcistica molto provinciale in Italia. esiste, ed è quella che gli special one non sono ben visti perché danno fastidio, soprattutto se sono stranieri. E c'è una certa stampa, non dico, ma in gran parte, e anche diciamo un gruppo dirigenziale italiano che non riesce a, come dire, accogliere questa opportunità di avere dei grandi allenatori stranieri che possono insegnare anche qualcosa, soprattutto a come ci si pone nei rispetti delle competizioni europee, perché si è visto che l'Inter ha vinto, ma ha vinto con un allenatore straniero. Noi abbiamo special one, e ci metto dentro anche Lippi, perché ho visto nella conferenza stampa che è stata fatta e trasmessa su Sky in diretta, come anche il giornalismo italiano cioè ha dovuto mendicare un po' di fiducia dagli stessi giornalisti che sono stati che hanno visto l'exploit che è stato fatto, che è stato fatto 4 anni fa da Lippi. Cioè noi abbiamo un calcio anche nelle teste che dovrebbero invece aprire questa dimensione nuova di calcio più internazionale. Lei a questo proposito cosa dice? Ma io sulla seconda parte ho fatto un po' fatica a seguirla, però sulla prima sono d'accordo, insomma. Ripeto, Mourinho secondo me è stata una grande occasione per il calcio italiano, è uno che è entrato come un elefante nella cristalleria, no? Chiaro che dà fastidio, chiaro che alla maggioranza non piace, chiaro che è arrogante, chiaro che in alcuni casi è indisponente, però è uno che ci ha messo sempre la faccia, e io ho rispetto per quelli personalmente, ho rispetto per quelli che ci mettono la faccia al di là di tutti questi difetti, no? Io non, torno a ripetere, non trovo nemmeno così peccaminoso il fatto che abbia deciso di scegliere un'altra via professionale, perché lo faremmo tutti, no? Se ci presenta un'altra occasione grande, importante, perché non pensarci, perché non seguirla? C'è chi dice, beh, ma c'è anche la riconoscenza. Sì, è vero, però stiamo parlando sempre di lavoro, stiamo parlando di professionismo. Quindi non trovo peccaminoso l'addio di Mourinho all'Inter, sinceramente. Prima di fare due chiacchiere sul Giro d'Italia, che sta per vivere i suoi giorni decisivi, voglio andare avanti a parlare con gli ascoltatori, o con alcuni di essi. 800 24 00 24, numero verde. Stavo leggendo nel frattempo estratti dell'intervista, di questa prima intervista di Mourinho da allenatore in pectore del Real Madrid. Su Maicon dice: un portento fisico, ha qualità fantastiche, segna 6-7 gol la stagione, non su punizione, è pronto a vivere un'esperienza che non ha ancora vissuto, e non posso dire che non lo prenderei volentieri. Questo su Maicon, che dunque resta un grande obiettivo di Mourinho per il Real Madrid, così come Di Maria, esterno dell'Argentina e del Benfica, un grande giocatore in un campionato minore, se possiamo prenderlo a un prezzo accessibile allora sì, lo prenderei e rischierei, ma non se la cifra è troppo elevata. Su Gerard Lampard dice: mi piacciono giocatori a fine carriera, gente di 33-34 anni, sono investimenti che non recuperi, ma se riesci a tirar fuori 2 o 3 anni di buon calcio da loro è già sufficiente per giustificare la spesa, e quei due sono persone che danno tutto. Dunque, tra le righe, Gerard Lampard sono pure obiettivi del Real Madrid. Su Kakà, Mourinho dice: è stato infortunato e mi sembra abbia perso un po' di autostima, però non penso ci saranno problemi a farlo tornare sul suo livello migliore. È un giocatore che deve avere parecchia sicurezza, così si mangia gli spazi e riesce a rompere gli equilibri. Poi su Guti e Raul, due senatori del Real Madrid, taglia la prima testa Mourinho e quella di Guti. Per me è fuori, ha dato addio al Real Madrid, ha fatto il suo giro di campo, quindi per me non si può ritrattare. Con Raul parlerò appena arriverò. Questo dice Mourinho. Sentiamo invece cosa dicono Vito da Milano e Andrea dalla provincia di Varese. Vito, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno dottor Genta, sono Vito da Milano, sono milanista. Sì. Volevo cambiare un attimino il discorso, non che tutta la concentrazione sull'Inter, però c'è anche l'altra squadra di Milano, il Milan. Sì. Come lei ha detto prima, ho sentito, toglie il Milan dalla lotta, io sono anch'io convinto. Però io, a meno che non alleni Berlusconi. No, guardi, io la mia analisi, che poi è quella di Sacchi che ha detto la settimana scorsa, all'ultima, abbiamo 11 calciatori con scadenza di contratto nel 2011. Ecco, qualsiasi allenatore arriverà, come farà a motivare 11 calciatori con contratto e scadenza 2011? Qua la colpa è della gestione della società, che siamo arrivati a questo livello. Ci vuole una discontinuità, e per me la discontinuità, o Berlusconi ha il coraggio di cambiare Galliani e Braida per avere un segno di discontinuità, perché non è cambiando allenatore che noi risolviamo i problemi. Sì, ma non è neanche cambiando Galliani e Braida se non ci sono i quattrini per fare la squadra, E poi quanto, Vito, mi perdoni, ma quanto alla scadenza del contratto, come si fa a motivarli? Sono professionisti, saranno ipermotivati, anzi, perché dovranno cercare, se vogliono giocare ancora ad alto livello, di fare una grande stagione. Quindi non la vedo come un problema di motivazioni, lo vedo come un problema di usura, di una squadra che è ormai finita e non ci sono i soldi per rifarli, per rifarla questa squadra, secondo una politica societaria che non penso possa ammettere deroghe con questa proprietà e in questo momento. Non è questione di Galliani e Braida, qui è questione di quattrini. Ha portato 11 giocatori a scadenza di contratto del 2011, tutti di età superiore ai 33 anni. No, sono stati Galliani e Braida, non è che è stato qualcuno che è sceso dalla luna. Perciò ci vuole una discontinuità. Galliani e Braida ci vuole una discontinuità da parte di Berlusconi, ci vuole una mossa forte per far capire a tutti i giocatori e a tutto il gruppo che il Milan cambia marcia. Non possiamo andare avanti con quei due, hanno fatto i loro 25 anni di glorioso, 20 anni, 22, 23, hanno sbagliato, ci vuole una discontinuità, bisogna cambiare. Se siamo arrivati a questo punto con 110 milioni di ingaggio all'anno, che equivale al monte ingaggi dell'Inter, certo, che è doppio della Roma, questa è la politica societaria, Vito, ma questa è la politica societaria del Milan, di cui Galliani e Braida sono stati gli esecutori, perché per anni il Milan è andato avanti con questo tipo di politica, giocatori maturi, pronti per vincere, molto costosi dal punto di vista degli ingaggi, impossibili da commercializzare, perché nel Milan di oggi ci sono forse tre giocatori che possono essere appetibili sul mercato, e sono Borriello, Pato naturalmente e Silva, gli altri chi li vuole. Quindi il Milan ha fatto questa politica, è chiaramente una squadra a fine corsa, non ci sono i soldi per fare un rinnovamento ad alto livello e dunque si naviga a vista, ma non credo che, lei dice discontinuità, la interpreto come strappo rispetto al passato, ma il vero strappo rispetto al passato sarebbe una proprietà diversa in grado di investire risorse economiche in questa squadra, cosa che la proprietà attuale, ma anche con pieno diritto, insomma, dopo tanti investimenti, cambio di strategia nel calcio, non si mettono più così tanti quattrini, punto. Questa è la verità, al di là delle buttate avesse allenato io il Milan. Per la politica del Milan è questa, lo sappiamo bene. Andrea, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Andrea da Varese. Sì. Salve. Prima un piccolo appunto tecnico. Io sono un trasportatore, sono nella zona di Borgo Manero e diciamo la radio qui il segnale è bruttissimo, quindi questo è un particolare. Volevo parlare un attimino di una cosa, che sarebbe simpatico se succedesse con Mourinho ciò che è successo con Ibrahimovic, nel senso... Mourinho va via per andare a vincere da un'altra parte, magari se Dio vuole l'anno prossimo Mourinho incontra l'Inter e perde, sarebbe una cosa carina, no? Ma l'ha detto Moratti, no? Ha detto che avrà sentito, no? Quando Moratti ha detto chissà che poi se ne penta, come se ne è pentito Ibrahimovic, oppure quando ha detto Mourinho piange, magari senso di colpa. Sono state le due battute migliori di Moratti nei giorni immediatamente successivi alla vittoria in Champions League, no? Un piccolo appunto però. Prego. Io è 45 anni che non vincevamo questa benedetta Coppa. Sarebbe bello se si parlasse più un attimino del gesto tecnico piuttosto che di queste varie polemiche di Mourinho, di Vito. Lo so, però non è colpa di nessuno. Se Milito ha scelto il Prato del Bernabeu con la Coppa che ancora non era stata sollevata per dire quello che ha detto, poi ritrattandolo in maniera anche abbastanza goffa. È chiaro che è una richiesta di quattrini, è chiaro che il mercato ce l'ha finché ne vuole, e è chiaro che fossi nell'Inter, ripeto, rifletterei sulla posizione di questo giocatore straordinario, che però è in là con gli anni. Non è colpa di nessuno se Giuseppe Mourinho ha scelto gli spogliatoi inopportunamente, gli spogliatoi del Bernabeu, per dire vado a allenare il Real Madrid. Quindi non è colpa di nessuno se la festa è stata questa, se il dopo partita è stato questo. Grazie Andrea, tra poco ricominciamo a parlare con gli ascoltatori, spero ci sia ancora un po' di spazio, perché adesso voglio parlare di Giro d'Italia che sta per incoronare, non oggi naturalmente, ma sulle montagne che arriveranno nei prossimi giorni, il re del 2010, Pier Augusto Stasi, ciao. Ciao Carlo. Senti, io prima però ti devo girare una quesito che ho ricevuto ieri da un ascoltatore in cui cui non so se ho dato una risposta corretta. L'ascoltatore mi diceva: ma se Xavier Zanetti avesse fatto il corridore, che tipo di ciclista sarebbe stato? Io ho detto: con quelle gambe un grande sprinter. Magari tu hai qualche idea diversa. Sì, però visto la sua carriera mi sembra anche un gran bel passista alla base. È uno che ha resistenza, mi sembra. Sì, a vedere sì. Le fasce muscolari sicuramente, come dici tu, è uno da, da pista, velocità da pista. Un bello scatto, però vista la tenuta, vista la serietà, visto il modo di gestirsi, mi sembra anche un gran bel passista adatto per i grandi giri. Senti, a proposito di Ivan Basso invece, la mia idea è che ora o mai più, cosa dici? Guarda, sulla carta tutto sembra estremamente elementare, mi sembra un duello tra Ivan Basso e Cadel Evans con la variante Vincenzo Nibali, che può essere un grande alleato di il problema è che di mezzo, dalla tappa di L'Aquila in poi, il giro è stato stravolto, capovolto, frantumato, e sin da subito abbiamo gridato allo scandalo e al fatto che il giro poteva essere veramente compromesso, e oggi arriviamo praticamente ai piedi delle ultime montagne con una classifica che porta ancora queste cicatrici, questi segni. E questo Davide Arroyo non è da sottovalutare, anche se la logica dice che sulle grandi pendenze questo spagnolo ha pagato e pagherà, però anche è vero che sulle grandi pendenze ci sono soprattutto anche delle grandi discese. Ivan non è un drago, però noi ci auguriamo che lui sappia anche tirare fuori quelle doti, quel coraggio che magari sulla carta nessuno gli attribuisce. Sì. Nibali è invece uno straordinario discesista. Guarda, Nibali sulla carta è un gran bel futuro, perché potenzialmente lui è forte su tutti i terreni, va forte a cronometro, va molto forte in discesa e va forte in salita, quindi forse anche meglio del suo capitano, anche se è ancora un po' giovane, deve crescere, deve maturare, e mi auguro che possa essere come un buon punto d'appoggio per io. Certo, le condizioni meteorologiche dicono che sarà tutto estremamente più difficile, tutto estremamente più incerto, certo, no? sì. Perché sul Mortirolo sta piovendo, pioverà anche domani, e sul Gavia è un grande punto di domanda. Sul Gavia, non è detto che se lo si faccia, ed è già pronta la tappa di riserva, che è ancora un Mortirolo inedito, la terza variante. Si passa da Grosio sul versante nord, è un Mortirolo più dolce però più lungo, e forse potrebbe strizzare meglio l'occhio a Ivan, perché la discesa è meno complessa e meno complicata del Gavia. Perché ad esempio il Gavia la salita è buona, ma non è così terribile, è molto più terribile e pericolosa la discesa. Certo. Ultima considerazione con Pier Augusto Stagi su questo giro che, come detto, sta per vivere i giorni più intensi. Pier Augusto, è anche un ultimo giro di danza per alcuni corridori cui siamo affezionati, da Simoni a Garzelli, a quanto pare, molto probabilmente. Simoni certo, Garzelli probabilmente lascerà, no? Garzelli probabilmente fa ancora una stagione, anzi senza probabilmente, l'intenzione è quella di fare anche il 2011 e sarà quella l'ultima stagione. Non so se avrà la forza, la voglia anche di fare un ultimo Giro d'Italia come Gibo Simoni. Invece Gibo, proprio siamo all'ultima siamo all'ultimo giro di campo. Ieri l'hanno festeggiato a Pena, sul Trentino, in questi ultimi giorni è stato molto molto acclamato, anche se molto molto staccato, ma lui l'ha preso con questo spirito molto romantico, molto sereno, ha fatto veramente delle pubbliche relazioni in bicicletta, gode ancora di tanta considerazione, tanto tifo, tanta passione, e arriverà a Verona per salutare e appendere definitivamente la bicicletta al chiodo. Grazie Pier, sentiamo naturalmente domani e nei prossimi giorni, perché come detto il giro va in montagna e lì si decide la maglia rosa. Dunque adesso angolo per il basket non può mancare, non mancherà mai in tutti gli appuntamenti con A Tempo di Sport, anche la prossima settimana, domani ovviamente tutto il programma c'è, cioè Palaspicchi, e ci sarà qui Danilo Gallinari per rispondere anche e soprattutto alle vostre domande, più che alle mie. Adesso voglio farvi sentire invece intervista di realizzata oggi da Flavio Suardi con chi ha condotto sul campo Caserta alla semifinale scudetto. È Fabio Di Bella, a mio parere il miglior playmaker di questo campionato, per fortuna italiano, sentiamolo. Abbiamo affrontato tutta la stagione con lo spirito giusto, abbiamo affrontato ogni singolo allenamento con la consapevolezza di creare un gruppo, creare una forza e creare una squadra vera. Ci siamo riusciti perché a fine stagione regolare eravamo secondi senza classifiche avulse, eravamo secondi da soli e meritatamente, andando a vincere anche su campi molto complicati come può essere quello di Bologna, quello di Milano, quello di Treviso, insomma. Questo 3-0 con Roma ai quarti è stato anche frutto di una consapevolezza dei nostri mezzi, la consapevolezza di essere una squadra forte, la consapevolezza di affrontare una squadra come Roma con un lungo organico, costruita per poter dar fastidio seriamente a Siena, che però era arrivata a settima in stagione regolare, quindi una differenza in campo doveva esserci e noi l'abbiamo evidenziata. Purtroppo non abbiamo una panchina molto lunga, comunque abbiamo qualche giocatore, cioè siamo in 4-5 che giochiamo sui 30 minuti, e portare una serie alle 5 gare giocando ogni due giorni avrebbe probabilmente favorito Roma più che noi. È andata bene così. Adesso avete da affrontare Milano, peraltro tua ex squadra. Sono abbastanza simili come squadre Milano e Roma come avversarie, proprio dal punto di vista della lunghezza del roster. Milano è una corazzata, si è rinforzata ulteriormente in vista dei playoff, aggiungendo due giocatori americani, uno con passaporto di spessore. Noi abbiamo la fortuna di essere arrivati secondi in campionato, quindi avere fattore campo anche con Milano. Caserta, fattore campo vuol dire giocare in sei. Nei momenti difficili di gara 2 con Roma non si poteva chiamare uno schema, non si poteva parlare con compagno perché non si riusciva, c'era troppo rumore. Quello che ci aspettiamo e quello che succederà sarà la stessa cosa nelle due partite interne con Milano. Quindi se da una parte noi siamo in deficit per quanto riguarda il numero di giocatori, dall'altra parte vinciamo... penso a mani basse per quanto riguarda il pubblico. Caserta è chiaro che adesso sogna i grandi scontri con Milano, la finale scudetto, insomma sicuramente vi faranno una testa tanta con questo scontro incrocio con Milano. Diciamo che Caserta riesce a gioire delle cose che succedono. Faccio un esempio, noi siamo tornati da Roma l'altro giorno alle 2:30 col pullman e tutto, ci hanno aspettato i tifosi che non potevano entrare a Palazzetto per una questione di sicurezza e tutto, ci hanno aspettato all'uscita dell'autostrada di Caserta ed erano tantissimi con fumogeni, bandiere a festeggiare. Perché non succedeva da tanto tempo di portare la squadra di Caserta in Europa. Poi è chiaro che uno vuole sempre di più, ma penso che abbiano capito che comunque apprezzano lo sforzo, apprezzano l'impegno, apprezzano la determinazione con cui tutta la squadra si presta ad affrontare tutte le partite. Poi i risultati sono semplicemente una conseguenza. Caserta ci crede, lo dice Fabio Di Bella. Walter Fuoco, inviato di Repubblica. Ciao Walter. Io non ci credo. Tu non ci credi? Lo scudetto è impossibile, no, lo sappiamo. Però alla finale, a me Milano non piace mica tanto in fondo. Non mi convince mica tanto. Anch'io in questo momento prendo Caserta, però molte volte nei playoff cediamo alla suggestione dell'ultima immagine. Allora, l'ultima immagine di Caserta è rilucente, scintillante, una squadra che ha dato 3-0 a Roma, che addirittura se l'era scelta come accoppiamento di playoff con quella famosa partita con Bologna, così un po' sulfurea. E invece Caserta li ha fulminati, e allora adesso noi tutti siamo qui che pensiamo che Caserta ha buone chance. Poi Di Bella è un giocatore del quale io ho nostalgia a Bologna, perché gioca bene, a cuore, a spirito, è un giocatore su cui impostare una squadra, poi sa anche parlare in italiano e quindi ci conquista anche con la dialettica qualche volta. Sì, però, ha fatto la sua stagione migliore, io credo, in carriera in Serie A. Io credo, sì, guarda, io ieri sera sono andato a vedere Virtus Cantù, poi dopo insomma c'è un'allegra tavolata di cui faceva parte anche Claudio Sabatini, proprietario della Virtus. La domanda è stata: ma era proprio il caso di rinunciare a Dybala e a Michelori, cioè due giocatori italiani su cui puoi costruire uno scheletro di squadra che dura nel tempo, che aggrega altri italiani? Cioè era un asse molto ben disegnato e molto ben funzionante ora altrove. Lui ha opposto ragioni di bilancio, noi tutti non vogliamo che i nostri cari proprietari si dissanguino, quindi ci siamo arresi a quel punto, però io credo che chi ha Dybala e Michelori fa bene a tenerseli, certo. E adesso tocca a Casera. Bilancio permettendo, perché è anche vero che alle condizioni attuali i giocatori italiani sono più cari di giocatori di pari livello che vengono da un'altra parte. Però hanno una partecipazione alle vicende del club che è importante, che poi magari alla fine ti costano come i tre americani che ruoti sperando di trovare quello che funziona, molto spesso non lo trovi. Walter, per chiudere invece, contro Siena chi ci va? Bologna o Cantù a questo punto? 2-2 dopo ieri sera. Anche qui la suggestione è che la Virtus sia in forte crescita mentre il Cantù sia in forte calo, però è l'ultima cosa che abbiamo visto, l'abbiamo vista a Bologna, ossia con un fattore campo importante. La Bella invece porta un altro segno di fattore campo e quindi io così pilatescamente dico 50-50, anzi dico 51 Cantù perché sono nato molti decenni fa e il fattore campo appartiene al DNA e ai ricordi del vecchio battone di pallacanestro. Grazie Walter, grazie, è sempre un piacere, buon lavoro. Grazie a Walter Fuoco, inviato di Repubblica, e non mi resta che ricordarvi che ovviamente domani venerdì al basket sarà dedicato l'intero pomeriggio sportivo Palla Spichi con noi Danilo Gallinari. Grazie a Franco Piantanida, Flavio Suardi per il lavoro in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Ci sentiamo naturalmente domani alle 14:00.